questo orribile rumore. Su e giù nel mezzo delle scale, le spalle contro quella porta, tutta la vita a far suonare un pianoforte, lasciandoci dentro anche le dita. Su e giù nel mezzo a una tastiera, siamo sicuri che la musica, tutta la vita, a provare a dirti che partivo, o che partivo, che morivo. Domani compro un bel violino e una camicia di piacevolmente addormentato, vive, vive, vive, su e giù nel buio di